quella scheda che ho davanti agli occhi anch'io, e quindi io non la ripeto, non la leggo mica questa scheda, devo solo dire che anche per questo istituto, che è l'Istituto Storico Italo-Germanico, la Presidente del Consiglio Meri è un grande onore, perché insomma lui fa parte ormai di un gruppo di storici che sono gli storici più importanti, più autorevoli che ci sono nel nostro paese. Ecco, questo è un dato di fatto, dipende naturalmente dalla sua esperienza, dipende dalla sua bravura, e fatto sta che lui, tra i molti impegni che ha avuto, che ha sempre, che ha in giro, ha anche accettato di venire qui. Ricordatevi che per noi che siamo abituati a lavorare sulle Formule 1, cioè a parlare dei nostri affari con i nostri colleghi studiosi, e quindi che siamo abituati a parlare di cose complicate, per noi è un po' difficile lavorare poi invece su un camion, come siete sostanzialmente voi, insomma. Cioè noi facciamo fatica, abbiamo anche delle preoccupazioni. E il professor Meri mi diceva che lui stesso, con tutta l'esperienza che ha, è forse più preoccupato di tenere questo incontro con questa marea di giovani che non invece di discutere in un gruppo di una decina di una ventina di studiosi tutti attrezzati di affari di alta storiografia. Quindi, ecco, per questo voglio dire, va apprezzato ancora di più il nostro sforzo che facciamo, no? Smetto e do la parola al professor Mirri, allora, dell'Università di Pisa. Il professor Spera ha ragione a dire che ero preoccupato di dover parlare a dei ragazzi e studenti come voi, però non, forse non aveva in mente o non ricordava una cosa. Io appartengo a quella generazione di studiosi, di gente che fa questo mestiere, che passa il tempo fra libri, biblioteche, archivi, così insomma, perché gli piace, che è venuto, sono tra i più vecchi ormai, e quindi ai miei tempi era complicato avviarsi per questa strada. Ho insegnato nelle scuole medie e nei licei per alcuni anni, prima di trovare una collocazione a livello universitario. Quindi non mi spaventano i ragazzi, ho avuto anche l'abitudine di insegnare anche al liceo e anche prima anche alla scuola media. È che proprio per questo mi rendo conto di come è difficile questioni ampie e complesse ridurle a un discorso breve e efficace, come serve quando si ha un tempo limitato a disposizione. È questo che mi preoccupa, perché all'amico Schiera, che mi diceva di fare qualcosa per i ragazzi, mi chiedeva di scegliere un tema, io ho scelto questo, riforme e rivoluzione, perché ho passato una parte notevole della mia vita a studiare storia del Settecento, perché in questo momento sto cercando di raccogliere delle idee proprio su questo tema, riforme e rivoluzione, mi veniva bene. Poi quando sono andato a preparare i miei appunti mi sono accorto quante cose bisognerebbe dire per arrivare a spiegare bene i concetti che almeno io ho in mente. E vediamo se ci riesco. Per fare questo assumo alcune, diciamo, stabiliamo alcuni presupposti, spero che vadano bene, cioè che voi un pochettino abbiate lavorato su queste tematiche, o perlomeno che abbiate presente a livello dei vostri manuali e quei capitoletti che ci sono in tutti i manuali intitolati l'età delle riforme, il dispotismo illuminato e così via, in modo che io non debba raccontare più di tanto. Mi interessa di più riflettere e discutere. Nei manuali che io usavo quando insegnavo, e anche in qualcuno più recente che ho per casa, che ho cercato di vedere, la questione di cui noi dovremmo discutere oggi si trova di solito dentro la parte che riguarda il Settecento, in un capitoletto intitolato Il dispotismo illuminato. Va bene? Si dice cos'è il dispotismo illuminato e poi si comincia a fare un elenco di cosiddetti despoti illuminati e si dice che riforme hanno fatto. Io ho presente un paio di manuali che ho controllato ieri e diciamo si dice che si tratta di principi che hanno una formazione, una cultura di tipo illuministico e sentono il bisogno di provvedere alla felicità dei propri popoli e che in relazione a questo attuano una serie di iniziative e di riforme politiche che dovrebbero nella loro visione andare incontro a esigenze e a bisogni dei loro popoli. E poi si parla, Federico II ha fatto questo, Caterina II ha fatto questo, Giuseppe II ha fatto questo, Pietro Leopoldo di Toscana ha fatto questo, pochino ha fatto Carlo III di Borbone in Spagna, qualcosina Pombala in Portogallo, niente in Francia, il tentativo di Turgot c'è stato ma è fallito. No? Grosso modo è questo lo schema dei manuali. Ecco, proviamo un po' a discutere questa cosa. Primo, chi l'ha inventata l'espressione despota illuminato, dispotismo illuminato? Cioè, ci sono studi qui. Dire a Federico II sei un despota illuminato si sarebbe arrabbiato. No? È un'idea... Si diceva semmai sovrani illuminati, principi illuminati, quello di Toscana, il mio amico più, quello che mi piace di più, insomma, Pietro Leopoldo, lo chiamavano il principe pastore. Ecco, era un linguaggio un po' diverso. Appartiene alla storiografia successiva questa indicazione, no? Questa combinazione di dispotismo che vuol dire una forma di assolutismo illuminato dalle idee dell'illuminismo che spinge a provvedere al bene dei popoli. Dietro a questa impostazione c'è un discorso che facevano uomini di cultura del Settecento, filosofi essenzialmente, cioè avvertivano la necessità di risolvere una serie di problemi, di contraddizioni che esistevano nelle società in cui essi vivevano, avvertivano la necessità di prendere dei provvedimenti, di assumere delle iniziative politiche, si rendevano conto della difficoltà in quelle società particolarmente difficili da manovrare, complesse, complicate, estremamente complicate per l'interferenza di poteri diversi, la difficoltà di spingere a forme di rinnovamento, si aspettavano che qualche principe, facendosi forte della sua autorità quasi dispotica, sulla base dell'assolutismo che era fondamento dei regimi politici esistenti, qualche principe illuminato dalle idee illuministiche, volesse lui andare contro gli ostacoli, le difficoltà, i corpi intermedi che ne limitavano l'autorità e attuasse leggi favorevoli al benessere, alla felicità dei popoli. Quindi è un'idea il dispotismo illuminato, è un'idea dei filosofi e parte dal presupposto che i principi siano loro che fanno la felicità degli uomini e prendono decisioni politiche. Tradurre questo in un manuale, non dico solo nei manuali, anche grandi studiosi, le grandi sintesi, l'ho indicato a chi mi chiedeva qualcosa da leggere, anche Lefebvre nel lavoro sulla rivoluzione francese fa precedere alcune pagine su il dispotismo illuminato e le riforme, no? È un'impostazione curiosa che può distorcere l'attenzione degli studenti e di voi che volete riflettere su queste cose. Cioè, non bisogna credere che nel Settecento la politica calasse tutta dall'alto e che i sovrani fossero così assoluti da poter praticare il dispotismo illuminato. Questa è una prima cosa che non va bene. Le procedure, cioè non bisogna personalizzare mai la politica, come voi sapete, la personalità della storia da sola non è che è un punto di riferimento per capire quello che succede, ma neanche nel Settecento, anche se si dice che esiste l'assolutismo. Le forme nelle quali nasce, si organizza il dibattito politico, si forma una volontà politica dominante per cui poi si attuano delle leggi, sono assai complicate nel Settecento più che in epoche più recenti, perché i corpi, le organizzazioni, le forze esistenti sono molte intersecate in maniera diversa. Comunque non pensiamo semplicemente ai principi come tali. Questo è il primo punto. Il secondo: parlando di principi, si prendono uno per uno i principi, ciascuno dei quali è principe di un certo Stato. Allora, il discorso sul cosiddetto dispotismo illuminato e sulle riforme diventa un elenco, caso per caso, cioè Stato per Stato. In Prussia si fa questo, ta ta ta ta, questo è nei vostri manuali, no? In Spagna si fa questo. Portogallo si fa questo, in Toscana si fa questo, gli Asburgo in Austria e nei territori asburgici fanno questo, vi danno elenco di riforme attuate. Questo, lavorare Stato per Stato, è pericolosissimo in generale, ma soprattutto per il Settecento, perché quello di cui la gente discuteva, la gente, voglio dire, gli uomini colti, le forze politiche, ma anche i funzionari dello Stato, i ministri, gli uomini di governo, quelli che erano impegnati nella politica, quello di cui discutevano era qualcosa che circolava nell'aria di tutta Europa. Le questioni che venivano affrontate erano questioni dibattute a livello europeo entro una classe colta e gruppi politici che erano in continuo contatto e in rapporto strettissimo. C'è un momento alto della politica europea del Settecento, il momento in cui Turgot viene chiamato al governo da Luigi XV, no? Nel 1774. Al momento in cui Turgot viene chiamato al governo, in tutta Europa tutti guardano a Turgot. Le corrispondenze si infittiscono: cosa fa Turgot? Che decisioni prende? Che riforme vuol fare? Riesce a fare questo? No, sì. A Berlino, a Vienna, a Firenze, a Madrid. Gli uomini politici, gli uomini di governo sanno che stanno discutendo insieme le stesse cose. Se Turgot fa e riesce a fare alcune cose, questo riguarda tutti i governi europei. Quando si diffonde la voce che Maria Antonietta, la giovanissima sposa, scusate, era appena morto Luigi XV, era il nuovo sovrano Luigi XVI che ha chiamato Turgot e aveva sposato Maria Antonietta, no? La figlia di Maria Teresa, giovanissima, corre voce che Maria Antonietta ha contribuito a far allontanare Turgot perché gli era antipatico. Maria Teresa gli scrive una letteraccia da Vienna, per dire, insomma, erano cose che giravano e circolavano in Europa, si discuteva insieme di queste cose. Quindi quello che viene chiamato riforme è un tipo di discorso che si svolge a livello europeo dalla metà del Settecento in avanti. Questa è la premessa che io volevo fornirvi prima di tutto. Secondo, con questo sistema di esposizione, facendo elenchi di riforme attuate, primo, si danno degli elenchi in cui a ciascuno bisogna attribuire qualche cosa, no? E quindi si dice, Federico II, che veniva considerato sovrano illuminato dagli illuministi, sia rafforzato lo Stato, ha contribuito alla centralizzazione dello Stato, ha sviluppato la burocrazia e così via. Che forse non è molto vero, già il problema della formazione e dello sviluppo della formazione dello Stato in Prussia è un problema che procede da tempo, ha una lunga storia. Le cose che più interessavano Federico forse sono altre, ammesso che si interessasse di molte riforme, era più fumo che arrosto, insomma, il dispotismo illuminato di Federico II. Quelle comunque di cui si interessava sono quelle che non sono passate, che non è riuscito a realizzare. Una riforma fiscale, la riforma dei codici, questo è quello che ha senso dal punto di vista delle riforme. Allora, l'altro pericolo di questo schema di esposizione è di fare elenchi di riforme attuate Stato per Stato. Sono elenchi diversi a seconda dello Stato, bisogna inventare qualcosa per quello che è stato per Giuseppe II, è la politica religiosa, il giurisdizionalismo, la riforma ecclesiastica o comunque del rapporto Stato-Chiesa e così via, no? E quindi sono elenchi diversi da Stato a Stato e che sono poco, come dire, indicativi e consistenti di quello che effettivamente stava succedendo in Europa. Allora io voglio provare a fare questo discorso e in questi termini. Guardiamo alle vicende del Settecento europeo da un punto di vista europeo. Teniamo conto che più o meno in tutti gli stati e nei vari paesi sono presenti forti tensioni e contraddizioni molto evidenti che le classi politiche, le classi intellettuali e le classi politiche avvertono e di cui si rendono conto e di cui discutono. C'è una grande discussione a livello europeo su una serie di problemi, su un gran numero di problemi. È una discussione che investe tutte le classi colte e tutti i sovrani e i governi. In questa situazione vengono avanzate e buttate avanti continuamente proposte, progetti di riforma, avanzate idee che possano servire a modificare situazioni date per sciogliere alcune contraddizioni, per eliminare alcune tensioni, per risolvere alcuni dei problemi che sono presenti. Quindi quello che esiste dal punto di vista delle riforme in primo luogo in Europa nel Settecento è una grande discussione dentro la quale compaiono continuamente progetti, propositi di riforma, modelli di riforma. Progetti e modelli di riforma che circolano e che sono presenti agli grandi intellettuali, alle classi colte, tipo Voltaire, Montesquieu, sono nomi che voi conoscete, sapete bene cosa pensavano e cosa dicevano. Ma il Kaunitz, l'uomo forte di Maria Teresa, lo sapeva anche lui. Ma i ministri di Federico II, i ministri di Pietro Leopoldo in Toscana, il Tavanti, di cui naturalmente nessuno parla, ma era un ministro molto colto e molto intelligente, sapevano le stesse cose, discutevano delle stesse cose. Quindi circolano queste idee, queste proposte, di queste alcune passano, alcune si riesce a realizzare. Forse, e direi la maggior parte, no. E questo non solo in Francia o in altri paesi, ma in tutti i paesi europei. Quindi il punto di attacco per capire il problema, mi pare, è questa larga circolazione di propositi, di proposte di riforma, di tentativi di riforma avviati nei singoli paesi, nei singoli stati, che non sono rispecchiati poi negli elenchi di riforme effettuate che voi trovate in un manuale o in una sintesi storica o che volete, perché le cose realizzate sono molto meno di quanto venga proposto, avanzato nei singoli contesti da intellettuali o da ministri stessi o da gruppi politici che vorrebbero effettuare delle riforme. Questo pone una serie di problemi. La società europea è in tensione, in ogni area le forme di tensione sono diverse, in alcune aree si fanno delle riforme, si interviene modificando certe situazioni, in altre no, bisognerebbe vedere caso per caso, perché c'è in generale questo grande fenomeno di tensione, perché in alcuni casi si ottiene qualcosa, in alcuni no. E qui bisogna andare un po' al di là delle esposizioni ovvie che a livello manualistico bisogna fare per semplificare come primo approccio ai problemi e intervenire sulle questioni concrete. Mi viene in mente, nei manuali che ho scorso praticamente non si parla di Cristiano IV di Danimarca, dello Strauense e delle riforme in Danimarca nel Settecento. Forse è uno degli ambienti più interessanti e più importanti, dove si realizzano cose abbastanza importanti. Ancora oggi, se voi parlate con avete amici danesi, per loro le riforme settecentesche hanno segnato in maniera forte le caratteristiche della loro agricoltura, della loro economia, della loro realtà e del loro paese. Quindi, però questo non viene fuori. Quindi, bisogna fare uno sforzo per andare un po' più in là, no? In secondo luogo, cerchiamo di, e questo ve lo metto un po' come parentesi, di stare attenti sull'uso del termine riforme. Perché può non voler dire niente, oppure andrebbe precisato. Cioè, non crediamo che riforma voglia dire come parola molto, no? Se vogliamo andare a livello molto elementare con la parola, con questa parola, vogliamo dire un intervento politico-legislativo di chi ha il potere di modificare una situazione esistente, emana delle leggi, degli editti e modifica una situazione. Allora, io credo che la storia di tutti i paesi, in quanto storia politica, sia una storia che vede movimenti e cambiamenti continui. Quindi le riforme ci sono sempre e ci sono sempre state. Non bisogna aspettare il Settecento per parlare di riforme. Anche, e questo è il punto che vorrei dire, alcune delle cose di cui si discute nel Settecento e si chiamano riforme, erano cose che avevano una più antica ascendenza e che vengono abbastanza da lontano. Quindi la parola riforma non è sufficiente a definire le cose che noi vogliamo studiare. Io per necessità di cose mi interesso molto di storia toscana, non solo ovviamente, poi semmai ho studiato i rapporti fra Francia e Toscana, fra riformatori francesi e toscani, quindi mai in senso campanilistico, ma dico Cosimo I quando impianta un governo centrale in Toscana a metà Cinquecento deve fare una serie di riforme. No? O quando vuole risistemare i problemi dell'approvvigionamento della circolazione dei prodotti agricoli nella Toscana, suo nipote Cosimo III alla fine del Seicento fa una grande riforma. Quindi, la parola riforma può voler dire tante cose, non è una questione che riguardi il Settecento. Questo è il primo punto. Allora, per capirsi meglio, bisogna vedere quali riforme. Tutti possono volere delle riforme, bisogna vedere quali riforme, dare un contenuto alla parola riforma, se no si fa un po' di bla bla. Negli elenchi che voi trovate nei vostri manuali, per esempio, si parla molto di un aspetto che è diventato consuetudinario nel dibattito storiografico e politico. Cioè, dappertutto quello che avanza, che risulta effettivo, è questo processo di formazione dello Stato, di centralizzazione politica, di organizzazione burocratica e così via. Come vi dicevo prima, a proposito di Federico II, ci possono essere cose di questo genere, sono cose che vengono molto da lontano e quindi non sono qualcosa che qualifichi veramente il riformismo settecentesco. Nel 600 Luigi XIV ha fatto una serie di grandi riforme e ha riorganizzato lo Stato in maniera tale da dargli un assetto di monarchia amministrativa molto avanzata. Allora, se noi puntiamo sul tema della centralizzazione, sulla burocratizzazione dell'assetto statale, finisce che facciamo come i francesi, quali molto convinti di se stessi e della propria storia nazionale, ogni volta che parlano di riforme, e qui se dopo lo volete vi porto delle citazioni, cosa dicono? Cosa sono le riforme? Sono quelle fatte dai despoti illuminati, Federico II, Giuseppe II e così via, Caterina II. Sono robe che riguardano i paesi dell'est, paesi arretrati, ancora non ben inseriti nell'Europa, c'è ancora da fare lo Stato, dietro le grandi parole riforme cosa fanno? Organizzano lo Stato. Noi, francesi, non ne avevamo bisogno, ci aveva già pensato la nostra grande monarchia francese. Fin dal 500 avevano cominciato, Luigi XIV ha fatto già le riforme. Loro ci hanno imitati un secolo dopo. In questa maniera non si capisce più niente. Allora, quello che succede nel Settecento, di cui discute la gente in generale, è una serie di cose concrete che nascono in un contesto anche di idee che sono grosso modo le idee illuministiche. E quindi il contenuto concreto delle riforme del Settecento va collegato a un tipo di cultura che è quella dell'illuminismo e che dà alcuni criteri per risolvere i problemi e le contraddizioni e le tensioni che compaiono nelle società europee di questo tempo e che fanno i tentativi e le iniziative del Settecento diversi da quelli del Seicento. Non è la stessa roba, non c'è continuità immediata. Io provo a fare un elenco, allora, di riforme di cui si sente parlare, per tradurre e trasformare, diciamo così, questi discorsi un po' generici in contenuti più precisi. Per esempio, è vero, come vi dicevo, che si parla di certe riforme amministrative, di rafforzamento dei poteri centrali, organizzazione burocratica dello Stato. Questa è una cosa in continuità che viene da lontano, non è necessariamente qualcosa che riguardi il fenomeno delle riforme illuministiche come interessano a me. Certamente se ne parla, perché ovviamente questo è un lungo processo, se ne parlerà ancora nell'Ottocento, ancora nel Novecento, queste sono cose che riguardano un aspetto della vita sociale e politica e della formazione di quegli organismi complessi in cui viviamo che si chiamano Stato, formazioni politiche e così via. No? Però quello che è più specifico di questo periodo, per esempio, è quello che notò Voltaire. C'è un articolo, l'articolo Blé del Dictionnaire philosophique, in cui Voltaire dice nel 1750 i francesi cessarono di discutere di filosofia, di teologia, di letteratura e cominciarono a discutere di grani. Banale, eh? Dalle grandi idee si passa a parlare di grani. Con questo è vero, eh? Con questo cosa si vuol dire? Verso la metà del Settecento diventa dominante, non in Francia soltanto, ma a livello europeo, la discussione sui problemi economici e sui problemi dell'economia. E un aspetto fondamentale del riformismo settecentesco e della politica di riforme è legato a problemi di come si regolano i commerci, come si regolano i rapporti fra lo Stato e le attività economiche, per esempio industriali, se le corporazioni vanno mantenute o vanno abolite, se il sistema annonario va mantenuto o va abolito, se si deve dare libera espansione alle attività economiche, alle iniziative economiche, alle iniziative speculative dei singoli che possano arricchirsi secondo i propri criteri, o se bisogna mantenere il controllo e la vigilanza su tutte le attività economiche. Questo è un discorso che riempie l'Europa in tutto il Settecento e alimenta proposte di riforma in vari settori. Questo allora è un modo per rendere concreto il discorso sulle riforme. È un modo diverso di pensare all'economia e al tipo di politica economica che lo Stato deve fare. Si contrappone alla politica economica fatta nel Seicento, non è il mercantilismo, è l'inizio del liberismo economico, del libero scambismo, delle riforme doganali e così via. Questo, per esempio, è un caso concreto in cui si discute in tutta Europa. Legato a questo si discute molto sui compiti dello Stato come organizzatore di servizi o di aspetti della vita sociale che servono all'economia, che so io, lo Stato e le vie di comunicazione, le strade, i canali, questi problemi e la politica che lo Stato può fare e deve fare in questo campo come promozione dello sviluppo economico. Questo per dirvi come si può passare subito a un altro terreno, ma si può parlare anche di altre cose. Per esempio, dal 6 e inizi 700, un problema che anche questo, come quello della formazione dello Stato, è di antica origine, ma che viene fuori un po' dappertutto, è quello delle università. Servono le università? Occorre avere delle università che forniscano allo Stato il tipo di funzionari di cui hanno bisogno, che fare delle università esistenti. Uno va a cercare e trova che di università si parla un po' in tutti gli Stati. La Prussia ha fatto una politica universitaria, ma non altri paesi, non la Francia. Problemi di riforma dell'università si pongono in Piemonte, nel Veneto, in Toscana. Quasi da nessuna parte si ottengono risultati o si va a fondo del problema. È un problema, è una di quelle cose di cui si discute e in cui non si fanno riforme. Un altro settore, l'istruzione. Non è necessario che la gente sia istruita? Non è necessario che la maggior parte possibile delle persone sappiano leggere e scrivere? Non è necessario che ci siano forme di istruzione più adatte alle necessità di paesi in sviluppo e quindi con elementi di apprendimento e di istruzione tecnica un po' più moderna? Tutti i problemi dell'istruzione vengono discussi a vari livelli. Quello dell'università è un altro problema. Con l'istruzione si possono toccare due cose, o quello dell'istruzione per tutti, l'istruzione elementare, l'istruzione di base, e tutti ne discutono in Europa, e qui si recupera di nuovo una questione che esisteva già, ma che ora diventa presa in mano dagli illuministi come una questione che può permettere il progresso dei paesi. È una questione che esisteva nei paesi protestanti, l'idea della istruzione elementare e possibilmente dell'istruzione elementare obbligatoria è tipicamente luterana e riformata, soprattutto dai calvinisti. Però si estende a tutta Europa e entra nei paesi cattolici nel Settecento. E poi anche le forme di istruzione, non più quelle garantite per esempio dai gesuiti nei paesi cattolici con i loro collegi, ma la possibilità di un'istruzione statale, pubblica, in scuole e istituzioni statali. Questo è un grosso problema, se ne discute dappertutto. Si farà quasi niente di queste cose. Un problema che continuamente torna fuori è quello del come si amministra la giustizia, come riorganizzare l'apparato giudiziario e come avere a disposizione per amministrare la giustizia leggi più efficaci, più giuste, più rispettose delle esigenze e dei diritti dei singoli. Quindi problema anche della riforma, non solo dell'amministrazione giudiziaria, ma della riforma dei codici, delle procedure giuridiche penali e così via. Anche di questo si discute in tutta Europa, nei vari paesi. Pochissimi risultati si otterranno. Un problema che esiste e diventa sempre più acuto nel Settecento è il problema delle difficoltà dello Stato e dei bilanci statali. Gli Stati sono diventati degli organismi enormi, complicati, impegnati in guerre, hanno bisogno di denaro e giocano su con due strumenti. Fanno pagare le tasse, ovviamente, e poi alimentano il debito pubblico, e col debito pubblico, intanto in tempo rapido, si forniscono i capitali e i mezzi necessari per la loro politica. C'è un legame fra imposte, tasse che vengono pagate ai cittadini, e debito pubblico. Questi problemi diventano esplosivi nella Francia, in Inghilterra, dalla fine del Seicento in avanti. Non è un caso che poi, quando scoppia la rivoluzione in Francia, al centro continua a esserci il grande dibattito sulle tasse, sul debito pubblico, sulla riforma fiscale e così via. Questo attraversa tutti gli stati. La cosa più importante di cui dappertutto si discute è la riforma fiscale, che vuol dire riuscire ad avere entrate statali sicure senza essere continuamente presi dalla necessità di ricorrere a un debito pubblico che è distruttivo, che a un certo punto costringe a fare bancarotta, non si può più pagare quello che ci si è fatto prestare dai cittadini. Una riforma fiscale, vedremo poi se si deve impostare, con quali criteri si può impostare. Si possono fare tanti altri esempi, io vi cito ancora, che so io, vengono in ballo problemi, la censura, la circolazione delle stampe, la circolazione dei libri, il modo in cui l'opinione pubblica si può formare, giornali, tutte queste questioni qui diventano, e qui lo Stato nei confronti della stampa, è un altro grosso problema, che è uno dei tipi di riforme di cui si discute, alcune cose si fanno, alcune no. E poi la cosa che, per esempio, quasi mai trovate nei vostri manuali, i compiti dello Stato nei confronti dei propri popoli, dei propri cittadini, dal punto di vista anche delle garanzie da fornire agli aspetti elementari della vita, cioè gli aspetti sanitari. Gli Stati moderni hanno affrontato alcuni problemi di intervento nel settore medico-sanitario, fin da già coi comuni alcune cose, cioè di fronte alla peste. Il problema della peste è stato un problema dominante in Europa per diversi secoli e gli Stati si sono attrezzati per affrontare la peste. Nel Settecento la peste non c'è più in Europa. Questa è una delle cose più divertenti della storiografia, no? Come arriva la peste, come sparisce, quasi misteriosa. Nel Settecento però lo Stato, che ha già la sensibilità per affrontare problemi che riguardano la salute collettiva, è investito un dibattito culturale, civile, illuministico, in cui si dice che lo Stato deve essere presente e provvedere a una serie di questioni. Per esempio, non c'è la peste, ora c'è il vaiolo. Si può, attraverso lo Stato, intervenire per salvare il maggior numero possibile di bambini dal vaiolo? Il vaiolo nel Settecento è un'epidemia che fa morire moltissime persone. Il dibattito sulla vaiolizzazione, viene scoperto il sistema della vaiolizzazione, che è un po' diverso da quello che sarà praticato poi, quello della vaccinazione, interessa i sovrani. Dico, ci sono sovrani che muoiono di vaiolo, dico, sono re di Francia o principi di casa d'Asburgo che muoiono di vaiolo. Gli stati in alcuni casi intervengono, fanno fare esperimenti, organizzano negli ospedali i centri per sperimentare la vaiolizzazione, no? Questo è un aspetto della politica sanitaria che però viene fuori in maniera molto diffusa in tutti i paesi d'Europa e molto parcellizzata, però importante, che so io, come salvare gli annegati, che tipo di interventi si possono fare per riportare in vita persone che sembrano morte, no? Le ostetriche, il parto, sono cose che compaiono nel Settecento, e gli ospedali che voi conoscete oggi come strutture pubbliche molto organizzate e importanti, erano di antica tradizione delle strutture che non avevano poi un compito di salvare i malati, ma di ricoverare quelli che non sarebbero mai guariti, semmai. E erano strutture non proprio pubbliche o comunque legate a enti religiosi, fondazioni religiose e così via. La politica degli ospedali e dell'intervento statale pubblico nel settore della salute è una cosa di cui si discute molto nel Settecento, si farà quasi niente. Legato a questo c'è una cosa curiosa, come studenti questo lo avete presente, si pensa che uno degli elementi che più contribuiscono a danneggiare la salute delle popolazioni sono i morti che esalano arie putride nelle chiese, vicino alle chiese e così via. Cioè il problema dei cimiteri. Anche questo è un problema antico, di vecchia origine, sollevato in ambito religioso, soprattutto dai giansenisti all'inizio del Settecento, viene maturando nella seconda metà del Settecento, è un tipo di riforma di cui si discute dappertutto. E qui diverse cose si fanno. I primi tentativi di istituire cimiteri fuori dalle città, a Parigi, a Firenze, in vari paesi europei, sono già della seconda metà del Settecento. Quando il Foscolo protesta, fa una bella poesia, ma un'operazione politica sbagliata. Vabbè. Vedete che se si comincia a fare gli elenchi delle cose concrete che si nascondono sotto la parola riforme, allora si comincia a capire un po' di più, no? Io vi ho fatto questi elenchi dicendo alcune cose si realizzano, alcune cose non si realizzano. Vi prendo per fare degli esempi soltanto alcune di queste cose che vi ho elencato, detto ora, il tempo vorrei non occuparne troppo, per concludere in una maniera che forse può essere utile. Si potrebbe parlare a lungo di quello che è il problema più grosso che vi ho detto prima, quello delle riforme in campo economico, quello che si chiamava discutere sui grani, ma è un problema molto lungo. Tenete presente solo una cosa, investe tutta l'Europa, riguarda una riforma, una serie di riforme sulle dogane, sulla circolazione dei prodotti, sulle tasse in entrata e uscita, sui dazi quindi, sulle banalità, sugli obblighi o meno di macinare usare strumenti in mano ai signori feudali per macinare il grano, per esempio, e così via. Riguarda il riconoscimento pieno della proprietà privata della terra e dell'uso della proprietà privata della terra, riguarda una riforma generale, non solo del commercio e dei flussi commerciali e delle regole che lo Stato usa in questo campo, ma insomma il passaggio da una concezione generale del rapporto fra Stato ed economia, che è la svolta più grossa che l'Europa abbia conosciuto in questi ultimi secoli. Perché è nato di qui e da queste grosse discussioni una serie di elementi che noi chiamiamo volgarmente liberismo economico, ma che ha una serie di componenti grossissime: il diritto di proprietà, il diritto all'uso privato della proprietà secondo criteri privati di, virgolette, speculazione o in funzione del proprio interesse privato e della realizzazione del massimo guadagno o del profitto per se stesso, senza elementi di responsabilità pubblica o di regole fissate dalla comunità, dal pubblico, dallo Stato, per garantire altri valori di solidarietà, di unità, di sussistenza a vantaggio di tutti. La vecchia economia fino al Settecento era fondata su questo, su principi che erano mentalità, modo di pensare, cultura della gente, per cui l'economia era inserita in contesti in cui prevalevano valori e principi di comunità, di solidarietà, di sussistenza, di rispetto delle esigenze della gente, in principio nella cultura della gente, di fatto no. C'è sempre diversità fra cosa pensa la gente e quello che avviene. La speculazione privata e i grandi mercanti e i grandi commercianti, chi faceva i suoi traffici, chi guadagnava e vinceva nel contrasto e nella contrapposizione fra forze economiche c'era già. Però la mentalità era questa. E abolire gli ultimi residui di regole, di regolamenti, di controlli pubblici e statali sull'economia voleva dire riconoscere il passaggio a una società del tutto diversa, dove l'individualismo economico, la ricerca del profitto e il mercato sono le leggi e i valori fondamentali. Credo che siamo ancora lì, no? Mi pare, grosso modo. Questo sarebbe un discorso lungo, non passa nel Settecento. Aggiungo adesso un punto che sarà l'elemento di quest'ultima parte, c'è di mezzo la rivoluzione, dopo la rivoluzione si arriva nell'Ottocento, pacifiche. Questo sconvolgimento enorme che è stato la rivoluzione, questa rottura violenta di condizioni, rapporti, leggi, principi e forme di organizzazione già preesistenti, ha sconvolto l'assetto della Francia, dei maggiori paesi europei. Con l'Ottocento è pacifico che quella mentalità e quella forma di, quelle forme organizzative che si chiamavano l'economia morale, no? Un'economia collegata a rispetto di alcune altre esigenze pubbliche, sociali e così via, non esiste più. Il liberalismo e il liberalismo economico hanno vinto, più che il liberalismo politico, il liberalismo economico e l'individualismo economico hanno vinto totalmente, anche nella mentalità della gente. Vi prendo un altro tema. Vi ho detto, ho già detto, l'importanza delle riforme fiscali. È una cosa che ha una sua antica origine. Fra fine Seicento e inizio del Settecento il problema dei bilanci dello Stato è dominante. Cosa viene fuori e interessa il tema delle riforme intorno alla metà del Settecento? Bisogna uscire con una soluzione razionale e coerente del problema della formazione del bilancio statale, di come i membri di una comunità organizzata, di una società organizzata, contribuiscono con la propria ricchezza alla vita dello Stato, il quale poi usa questi mezzi per gli interessi comuni e generali. Cioè bisogna porre in maniera più chiara e regolare il problema del rapporto fra cittadini come contribuenti, Stato come colui che incassa una parte della ricchezza dei privati e la redistribuisce. Allora qui c'è qualcosa di nuovo. Si deve parlare ancora di riforme fiscali, ma in base a un criterio che non esisteva prima, di un rapporto di solidarietà e responsabilità degli abitanti di un paese rispetto alle esigenze generali del paese, che comporta un rapporto diretto di ciascuno produttore di ricchezza, possessore di ricchezza, con lo Stato, e quindi il problema di una fiscalità, primo, che colpisca direttamente coloro che hanno ricchezze. Questo non esisteva prima. Lo Stato aveva modi, sarebbe lungo spiegare, complicatissimi per raccogliere le ricchezze. Prevaleva sempre l'imposta indiretta, dogane, tasse di consumo, tassa del sale, poi verrà inventata la tassa sul tabacco, e poi octroae, come dice, dazi, pagamenti di gabelle varie, no, ci sono varie forme. Le imposte dirette erano poche e distribuite in maniera non molto ragionevole, insomma, no? Qui nasce il principio, bisogna puntare sull'imposta diretta, che vuol dire un rapporto diretto e personale di ciascuno di noi col suo Stato, per cui ciascuno di noi viene corresponsabilizzato, per cui una parte della sua ricchezza lui la deve cedere allo Stato. E il rapporto è un rapporto diretto fra Stato e cittadino. In Francia si discute inutilmente per tutto il Settecento di problemi di riforma fiscale. Ne parla e se ne interessa Federico II, Giuseppe II, in Toscana l'altro fratello, Pietro Leopoldo, è incastrato su questi problemi. In Spagna, a Napoli, si inventano dei nuovi strumenti per, diciamo, individuare le ricchezze dei singoli e far pagare le tasse, i catasti. E si possono fare in varie maniere. A Napoli faranno un catasto, si chiama il catasto unciario, che è una cosa. In Spagna si tenta di fare un catasto analogo a quello napoletano, catasto di tipo unciario del ministro La Insegnada. E in Lombardia si riesce a fare un catasto, quello famoso di Pompeo Neri, geometrico particellare. Questo diventa un modello. Federico II dice, bello, perché non lo facciamo anche noi? In Francia fanno una legge nel 63 perché si faccia un catasto come quello che ha fatto Pompeo Neri in Lombardia. In Toscana cercano di fare uno catasto dello stesso tipo, fallisce. L'unico catasto realizzato in Europa nel 700 resta questo lombardo di Pompeo Neri. La riforma fiscale in questi modi non si riesce a farla, rimane un problema. È un problema di grande movimento europeo intorno a un progetto di riforma. Non si fanno riforme in questo senso, si fanno una serie di piccole riforme fiscali, in ogni paese ci sono dei modi per affrontare questo problema. La riforma fiscale che ormai passa in tutta Europa passa attraverso la rivoluzione francese. Appena comincia la rivoluzione, primo problema, fare i catasti. I catasti che si troveranno in Europa nell'Ottocento sono catasti iniziati sotto la Rivoluzione francese. In Francia si comincia a lavorare al catasto, in Toscana si comincia a fare il catasto, verrà realizzato nei primi dell'Ottocento, nel Meridione cominciano, poi rimane lì, ma insomma la spinta decisiva a fare questo viene dalla Rivoluzione, anche se tutto il Settecento ne ha parlato. Perché? Cosa c'è? Perché poi non è necessario passare per il catastrofico. Nell'Ottocento è passato il principio che le imposte dirette, e in particolare le imposte fondiarie su possesso della terra, devono essere la base del bilancio dello Stato, e ogni proprietario e cittadino con le sue ricchezze deve contribuire direttamente al bilancio dello Stato. Cioè il rapporto diretto cittadino-Stato e la responsabilità del singolo verso lo Stato vengono ormai, entrano nella mentalità e nella cultura ottocentesca. Cosa c'era nel Settecento che non si riusciva a far passare, che rendeva impossibile realizzare le riforme? È che appunto qui le riforme, come questa fiscale, vengono concepite sulla base di uno schema di rapporto diretto fra cittadino e Stato. Che vuol dire? Tutti siamo cittadini. Tutti siamo egualmente cittadini, tutti devono pagare le tasse, ci deve essere eguaglianza di tutti di fronte alle tasse. Questo nel Settecento non si può realizzare. Appena si affronta questo problema saltano per aria i nobili che sono privilegiati, la Chiesa che è privilegiata e non paga le tasse, le città, i comuni, le singole organizzazioni, le corporazioni, ognuno con i suoi privilegi e con i suoi criteri e sue forme di partecipazione alla, diciamo così, contribuzione che il sovrano richiede. in forme varie, ciascuno poteva contribuire, ma doveva decidere lui come contribuiva. Quello che è radicalmente nuovo, quello che fa saltare la società settecentesca, è il principio del rapporto diretto fra tutti i cittadini e lo Stato, che vuol dire l'eliminazione dei privilegi, delle particolarità e così via. E questa è la ragione per cui la maggior parte delle riforme, quando non sono più quelle di lunga durata che vengono dal Seicento, ma nascono in un quadro e in una mentalità illuministica, non riescono a passare. Le riforme fiscali si potevano fare anche nel Seicento. Quando la riforma fiscale centrale diventa imposta diretta, rapporto diretto fra cittadino e ricchezza dei singoli e lo Stato, cioè eguaglianza dei cittadini come contribuenti, non si fa. Catasto non si fa, perché il catasto vuol dire che tutti i proprietari, non importa se sono nobili, ecclesiastici, se è il sovrano, se sono gli enti, cioè, tutti in quanto proprietari devono pagare le tasse. Questo non si può fare. Lo fa solo casualmente un principe illuminato, cioè di Asburgo in Lombardia, e è una roba che non entra in funzione bene nel Settecento, sarà molto esaltata da Cattaneo o dagli studiosi italiani dell'Ottocento. L'altro esempio è quello dei codici. Il problema dei sovrani e degli stati di avere un'organizzazione giudiziaria, un'amministrazione della giustizia più coerente, di avere delle leggi più efficaci, è un problema continuamente sentito. Il problema di riorganizzare l'amministrazione giudiziaria, di fare dei nuovi codici, attraversa tutto il Settecento. Ci sono due modi di fare i codici. Qui io potrei farvi gli elenchi dei tentativi e delle realizzazioni in questo campo. Vediamo se trovo il... C'erano già state delle iniziative di Luigi XIV, poi il re di Sardegna fa delle costituzioni agli inizi del Settecento, in Francia ci sono le ordonnanze di D'Aguesseau, a Napoli Tanucci cerca di riformare i tribunali, in Toscana si fanno tentativi di fare un nuovo codice con commissioni negli anni 40, negli anni 80, negli anni 90 non si realizza mai nulla. Federico II fa un grosso progetto di nuovo codice affidato al Coceio, Coceius è un nome latino di un grosso giurista prussiano, il progetto viene formulato ma non viene realizzato, soltanto negli anni 90, rivoluzione avanzata, si parlerà di questo problema dei codici. Maria Teresa tende a fare un codice anche lei, e così via. Voglio dire, è stato studiato questo da un giurista, si chiama Giovanni Tarello, in un lavoro in cui sottolinea la differenza fra due modi di concepire i codici. Uno è il principio di raccogliere le leggi esistenti, ordinarle, creare un insieme di punti di riferimento, di dispositivi utilizzabili da chi amministra la giustizia che siano più chiari, più semplici e più organici. Questo si riesce a fare in vari casi. L'altra soluzione che viene avanti nel Settecento è l'idea di rifare da capo a piedi un codice, cioè di pensare, a partire dai dati elementari, chi è l'uomo, chi è il cittadino, quali sono i suoi rapporti con lo Stato, i suoi doveri, i suoi compiti, anche nel settore dei rapporti con gli altri, definire tutte le forme di comportamento possibile, le regole e quindi le punizioni quando si deroga. Rifare ex novo un codice vuol dire stabilire un quadro di riferimento che è un rapporto diretto fra il cittadino e chi esercita il potere, fra il cittadino e chi amministra la giustizia. Di nuovo, come nel caso delle tasse, un rapporto diretto fra il cittadino e lo Stato, un rapporto diretto fra il cittadino e lo Stato come erogatore di giustizia e amministratore di giustizia. Questo non si può fare. I nuovi codici, oggi noi abbiamo dei codici, vengono fuori da, elaborati da commissioni che si costituiscono nell'ambito delle grandi assemblee rivoluzionarie, già nella legislativa e poi durante la convenzione, tutta la elaborazione dei nuovi codici di diritto privato, dei codici di commercio, tutte le innovazioni legislative che risistemano la cultura e la civiltà europea dell'Ottocento nascono dopo la rivoluzione. Perché? Perché bisognava passare attraverso una rottura di fondo dei principi costitutivi degli stati di antico regime, il principio dell'eguaglianza, o quello che fu chiamato il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato. Ragionando in questi termini, il problema dei cimiteri, voi ricordate se la prende con Napoleone è il Foscolo, no? Perché? Perché i tentativi di risolvere questo problema dell'inumazione dei morti, insomma, no? Viene ripreso da Napoleone come erede di grandi idee rivoluzionarie e viene imposto per legge e per forza la costruzione di cimiteri al di fuori degli stati, delle città. Prima c'erano stati dei tentativi. Allora, ci sono tensioni, bisogni, progetti, poche riforme effettuate, scoppia la rivoluzione, si fa carico di una serie di problemi aperti, di fatto, piaccia o no, quei problemi sono stati risolti passando attraverso questa grande rottura rivoluzionaria, che è una grande rottura, come dire, che nasce dal di dentro in Francia, ma nel resto d'Europa arriva. Su queste questioni, catasti o fiscalità o cimiteri o libertà di commercio e liberismo economico, diritto di proprietà e così via, viene portato da Napoleone, che porta avanti le cose che la rivoluzione aveva portato in primo piano. La rivoluzione è anche un'altra cosa, e questo apre però un altro discorso, non è più in rapporto con le riforme, è anche la invenzione di un sistema politico diverso, il tentativo di stabilire le regole e le forme in cui la formazione della volontà politica espressa dall'alto o dal centro di chi ha il potere, la formazione della volontà politica proceda secondo una forme organizzative dell'espressione della volontà dei cittadini che vogliono dire una Costituzione, insomma, no? È un problema aperto per tutto il Settecento, ci sono rivoluzioni relative alla Costituzione politica degli Stati in tutti i paesi. Certamente la combinazione della rivoluzione politica e la costruzione di un sistema politico diverso che rompe con il passato è un elemento essenziale perché poi passino quelle riforme o quei progetti, quei bisogni, quelle esigenze che nel Settecento erano maturate e che nell'Ottocento saranno un dato della civiltà europea. Dunque bisogna facciamo come l'altra volta, cioè se ci sono cioè se c'è qualcuno di voi che ha da portare qui pubblicamente delle domande, incominciamo, eh? Chi è il primo? Ecco, avanti. Per favore, fate attenzione. Aspetti che si chetino un po', perché... Su, fate i bravi, eh. Adesso avete fatto la pausa. Allora, c'è che si parli, bisogna che parli dentro lì. Lì dentro, con la bocca. In quali modi, oltre allo scioglimento della Compagnia di Gesù, la Chiesa Cattolica ha reagito alle riforme dei despoti illuminati? Posso rispondere molto rapidamente, piuttosto male. Però anche qui bisogna di nuovo sciogliere la parola riforme e dire di che cosa si vuol parlare quando si parla di riforme. Nel mio discorso, il tentativo di dare un quadro europeo e di circolazione europea dei temi sui quali si discuteva per fare delle riforme, non ho parlato di una componente importante che è questa dei rapporti tra Stato e Chiesa. Anche perché la mia impressione è che questo problema riguardi prevalentemente i paesi cattolici. Tutta la questione di ridisegnare i rapporti tra Stato e Chiesa, di subordinare maggiormente le autorità ecclesiastiche alla legislazione pubblica e dello Stato, gli interventi sulla censura che ne conseguono, per esempio, gli interventi verso lo scioglimento di enti ecclesiastici considerati superflui e così via, la riduzione delle compagnie e degli ordini religiosi, sono questioni che riguardano gli Asburgo, la Francia, la Spagna, gli stati italiani, sono all'ordine del giorno nei paesi cattolici, meno nei paesi protestanti, ovviamente. Allora non mi dava la possibilità di quel giro completo per l'Europa, passando per la Danimarca e per la Prussia e per la Svezia, che mi interessava fare, quindi non ho scelto questo argomento. Questo certamente è stato un argomento centrale. È uno di quegli argomenti, di nuovo, che è meno, come dire, proiettato in avanti rispetto a quelli che ho scelto io. Ho scelto apposta fiscalità, codici, politica sanitaria, ospedali, cimiteri e così via. Perché il giurisdizionalismo, il modo di risolvere i problemi fra Stato e Chiesa, gli interventi dello Stato nel controllo delle attività esterne della Chiesa che interferiscono nella vita pubblica, cioè, sono di nuovo di lunga durata e continueranno anche dopo. Non investono immediatamente, se non su alcuni punti che ora dirò, la questione centrale di rottura del passaggio a un diverso rapporto fra cittadino e Stato. Quello che è il punto di passaggio importante invece in questo campo è la libertà di coscienza. Allora, e questa interferisce sulla Chiesa, è uno degli elementi che riguarda la Chiesa, non la libertà di coscienza, la libertà religiosa e quindi anche il rispetto di tutte le confessioni religiose, la libertà nell'esercizio della propria fede religiosa, libertà di accesso a tutte le cariche pubbliche indipendentemente dalla fede religiosa, eccetera. È un tema centrale nel Settecento, anche questo ha singole realizzazioni ad opera di alcuni singoli sovrani più illuminati. Giuseppe II fa un celebre editto di tolleranza, ma insomma la rottura grossa, per cui indipendentemente dalla fede religiosa tutti sono cittadini dello Stato nel quale vivono e sono riconosciuti come cittadini, questa è con la rivoluzione. Primo effetto della rivoluzione in Francia è che gli ebrei vanno a votare, i protestanti vanno a votare come gli altri, quando si formano le assemblee e si procede alle forme elettive e così via. Tutte queste cose entrano in collisione durissima con la Chiesa come istituzione universale e generale. Il che non vuol dire, quando dico Chiesa, che questo comporti, che i cattolici, il mondo cattolico si identifichi con la Chiesa. Primo, c'è un Papa, Benedetto XIV, XXIV, insomma, il Papa Lambertini di Bologna, che è un papa che veniva accusato di essere un po' filo illuminista. Era amico di Muratori, era un uomo che ha nel suo stato e nei rapporti tra Stato e Chiesa cercato di allentare alcune briglie. Quindi questo è un cattolico, un papa. Non è la Chiesa come istituzione che si trova investita da questo processo di riforme e quindi capisce la necessità di avere un atteggiamento diverso. Ci sono uomini di formazione, di mentalità cattolica, Muratori secondo me non è molto illuminista, nonostante quello che si dice nei libri, però è certamente favorevole a una serie di riforme, per esempio quella dei codici e dell'amministrazione della giustizia e così via. Ma dico, uno che ha, sul piano della fiscalità, no? Il più bel tentativo di fare un catasto in Italia dopo quello lombardo di Pompeo Neri lo fa il cardinale Boncompagni, che è il legato di Bologna, e a Bologna questo cardinale, come uomo dello Stato della Chiesa, non della Chiesa, di un organismo politico, però personalmente è cardinale e cattolico, ha mentalità abbastanza illuministica, ha letto i fisiocratici, ha una concezione della fiscalità di tipo moderno, per cui chiunque ha ricchezza ed è proprietario deve contribuire al bilancio dello Stato. Quindi bisogna distinguere la Chiesa, in quanto è un'istituzione che è ancora legata all'antico regime e che viene investita fortemente da queste cose, il che non vuol dire che il mondo cattolico sia investito tutto in queste cose. Negli illuministi c'è una linea di propaganda anticattolica, alcune volte irreligiosa, ma questa è un'altra cosa e riguarda lo sviluppo della cultura e del dibattito culturale, non il problema delle riforme. Ecco, qualche altro? C'è qualche altro? Io sono una rappresentante di una classe quinta, quindi diciamo la nostra domanda si sposta... Non è questa? Sì, la classe quinta che iniziasse. Si sposta un po' più in avanti nel periodo storico. Diciamo, fino adesso abbiamo parlato di riforme e della rivoluzione francese, diciamo, in particolare, attuata diciamo, nel Settecento dalla borghesia. Ma a queste riforme, a questa rivoluzione, sono succedute altre riforme e un'altra rivoluzione, diciamo, dovuta a una nuova forza sociale, il movimento operaio, che aveva, diciamo, dei programmi sia politici, ma in particolar modo sociali, diversi dalla borghesia. Ecco, volevamo sapere se poteva esporci brevemente i cambiamenti dovuti appunto a questo movimento. E poi, diciamo, sia nella borghesia, sia nel movimento sociale, appunto nel movimento operaio, esistevano due correnti, quella riformista e quella rivoluzionaria. Può appunto brevemente illustrarci le differenze, le analogie tra queste due correnti, riformista e rivoluzionaria, nella borghesia e nel movimento operaio. Questo è un tema da maturità. È il tema di maturità di quest'anno. Mi ci vorrebbe molto tempo. Quindi mi scuso in anticipo perché dirò poche cose probabilmente non soddisfacenti per gli studenti che mi hanno posto questa domanda. Sono disposto a fare delle ore di chiacchierate insieme se volete, ma cioè, non ora perché... Non... Io immaginavo, e per questo ho dato il taglio che ho dato alla mia esposizione, che un titolo così facesse venire fuori una questione di questo genere, cioè riforme o rivoluzione, che si può declinare in tanti modi, nel Settecento, nell'Ottocento, nel movimento operaio, oggi ci sono chi vuole la grande riforma, altri vogliono nessuna riforma, piccole riforme, è un linguaggio politico ormai diffuso, no? Ecco. Allora, per prima cosa, il mio obiettivo era quello di smontare il termine riforma. Dire, non facciamoci imbrogliare dalle parole. Diciamo che cosa, quale riforma, perché tutti sono capaci di dire riforma, riforme. No? Quindi, se si dice la riforma fiscale fatta in questo modo, per cui, che so io, si fa un catasto, per cui tutte... e l'autorità dello Stato interviene presso i singoli, controlla il tipo di ricchezza di entrate che ha ciascuno, questo è un modello e un'utopia di riforma fiscale che poi è irrealizzabile, no? E quindi si fa pagare a tutti come è giusto, secondo e sulla base della ricchezza che ha, secondo una percentuale prevista, cioè, questo è un discorso concreto, qui riforma vuol dire una cosa concreta, dire riforma o riforme non vuol dire nulla, primo. Il problema rivoluzione, quello non l'ho trattato, vi ho fatto vedere che c'è un nesso riforme-rivoluzione, ma un nesso complicato che spero di aver reso evidente nel Settecento. Nel Settecento però non si è posto il problema a questi politici, a questi uomini di governo, riforme o rivoluzione. Nessuno pensava alla rivoluzione. La rivoluzione è arrivata. È stato un terremoto enorme che qualcuno lo diceva, dice verrà una rivoluzione, vedendo quante tensioni, quante complicazioni c'erano nella propria società, ma era un modo di dire, non è che qualcuno si aspettava o voleva o preparava la rivoluzione è arrivata. Di solito, io vorrei dire questo un po' brutalmente, è più facile che le rivoluzioni scoppino, che non che si possano programmare, preparare, prevedere, Ecco. Su questa base, e chiarito questo, allora però è nato nella cultura politica da allora in poi questo confronto riforme-rivoluzione. Io per esempio in questo momento sto studiando questo. Che vuol dire? Quando scoppia la rivoluzione francese, e gli eserciti francesi prima del direttorio e poi di Napoleone compaiono in vari stati europei, comincia l'atteggiamento di personaggi e personalità di questi stati che dicono ma perché vogliono venire a rivoluzionarci? Abbiamo fatto le riforme, stavamo così bene con i nostri principi illuminati, non c'è bisogno di rivoluzione. Allora in questo caso le riforme senza rivoluzione, no? Loro l'hanno fatta la rivoluzione perché non avevano avuto Pietro Leopoldo. Non avevano avuto dei principi veramente illuminati che facessero le riforme. Non avendo avuto le riforme, gli è capitata la rivoluzione. Se la tengano, affari loro, li rispettiamo, però non vengano qui a imporci queste cose. La soluzione di contrapposizione di riforme a rivoluzione è una soluzione che compare tra il 1791-92 in avanti, nella cultura soprattutto di alcuni stati italiani, in particolare in Toscana, che è il paese che più ha avuto fama europea per le riforme che vi si sono realizzate, e ha un senso antirivoluzionario, di difesa dalla invasione dei rivoluzionari francesi, antidemocratico comunque, no? Nell'Ottocento, passato questo tipo di contrapposizione riforme-rivoluzione, vengono fuori due cose, cioè una cosa soprattutto, la scoperta della rivoluzione. Nella storia del mondo rivoluzioni ce n'erano già state, ma non c'era l'idea della rivoluzione come forma di lotta politica, come forma di soluzione di contrasti politici. Masaniello ha fatto una rivoluzione, ve lo ricordate? Non è che c'erano delle forze politiche che avevano previsto, voluto, preparato una rivoluzione. E dopo che lui l'ha fatta hanno detto, guarda che rivoluzione che era scoppiata a Napoli, per fortuna è finita. No? Nell'Ottocento e nella cultura politica dell'Ottocento invece nasce un'idea nuova che esiste ancora, o esisteva finora, o forse è ancora valida. Questo diventa un discorso sull'attualità. Cioè, le rivoluzioni cambiano il mondo. La rivoluzione francese ha cambiato il mondo, quella parte di mondo che loro credevano fosse il mondo. Ci sono parti del mondo dove non se ne sono accorti, ma noi siamo europei, eurocentrici, crediamo che tutto il mondo stia qui, no? Allora è nato il mito della rivoluzione come strumento di forte, accelerata trasformazione della società. Pensate Mazzini. Mazzini ha passato la vita a dire facciamo la rivoluzione, prepariamoci per la rivoluzione, organizziamo la rivoluzione, creiamo delle organizzazioni e dei patrioti e degli uomini che facciano la rivoluzione. Non gliene è riuscita di fare una a Mazzini, con l'idea di fare la rivoluzione. Garibaldi, che un po' ci credeva, ma poi faceva anche altre cose, però era pronto a correre quando sentiva aria di rivoluzione, poi una o due le ha fatte. No? Ora, a parte queste battute, un conto è l'idea, o se volete, quella particolare filosofia della storia che nell'Ottocento si è diffusa e che sostanzialmente vede la storia europea come una storia che passa per grandi fasi e per grandi stadi, dal feudalesimo all'età della borghesia o dal feudalesimo al capitalismo e poi dall'età della borghesia o del capitalismo al socialismo o al comunismo e così via. Se la storia è fatta di grandi fasi e di grandi momenti di questo tipo, con punti di passaggio dall'uno all'altro, c'è stato un caso in cui le rivoluzioni borghesi, a cominciare da quelle inglesi del 600 fino all'ultima vera francese della fine 700, le rivoluzioni borghesi hanno permesso il passaggio definitivo da un'età all'altra, diciamo dal feudalesimo all'età della borghesia. Adesso c'è da aspettare un'altra, prima alcuni dicono ora la rivoluzione borghese va fatta anche qui da noi, la Mazzini la voleva fare nel suo paese, in altri paesi europei e così via, o la rivoluzione nazionale, no? In questo o quel paese. Dopodiché è nato nella storia del movimento operaio, che questa è una realtà grossa della civiltà europea moderna, il movimento operaio, le sue forme organizzative, le sue forme di espressione, si è preso a modello questa concezione. Adesso si tratta di fare un altro passaggio, a un altro stadio ulteriore della società più elevato, il passaggio si attua attraverso la rivoluzione. Questo è esistito, così si è ragionato. Certamente nei partiti socialisti, che erano le forme in cui una parte del movimento operaio si è organizzato fra la seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, una parte dei partiti socialisti che sono nati con questa cultura o con questa filosofia della storia, dei passaggi dalla società borghese alla società socialista, i passaggi da uno stadio all'altro che deve avere come punto di trasformazione una rivoluzione, sono nati con una illusione, diciamo, o con un'ipotesi, o con una previsione rivoluzionaria, così come Mazzini per gli uomini della borghesia, così i socialisti facendo riferimento a quello che loro chiamavano la classe operaia. Però, insomma, le rivoluzioni, come vi dicevo, scoppiano, se scoppiano, non è che si può passare il tempo a aspettare, e non è che si può farla noi la rivoluzione, ecco, non è programmabile. La gente che vuol fare la rivoluzione poi rischia che non la vede mai. Allora nasce il problema, intanto che si fa, intanto si può però combattere per migliorare le cose, per fare qualcosa che serva alla classe operaia, facciamo delle riforme, e quindi il contrasto è riforme e rivoluzione ne viene lì dentro, no? In questo contesto. Diventa un elemento di scontro però fra frazioni del movimento socialista nei vari paesi. Il movimento socialista è di nuovo un movimento internazionale, e quindi il fatto di essere riformisti o rivoluzionari è una polemica interna in cui quelli che si chiamano rivoluzionari dicono: voi a forza di pensare alle riforme avete dimenticato che però l'elemento fondamentale è quello del passaggio a un altro tipo di società, e questo si attua solo con la rivoluzione, quindi siete troppo appiattiti nella ricerca di riforme che tanto non cambieranno mai la realtà. Questo è un discorso interno, salvo un matto, si chiamava Lenin, che a un certo punto all'interno di questo dibattito mette con più forza questa idea che la rivoluzione ci sarà, avverrà, e quindi non dico che è programmabile, ma bisogna creare uno strumento capace di impadronirsi della rivoluzione nel momento in cui arriverà e portarla in fondo. Era matto dire questo, scusate il modo, e gli è andata bene. Perché effettivamente ha creato uno strumento di questo genere, il gruppo bolscevico, che poi è diventato partito bolscevico, è stato un gruppo molto forte per la Russia, è scoppiata una rivoluzione in Russia, questo è un altro problema, chissà perché, qui va capito, eccetera, eccetera, nel 17 è stato una cosa enorme di portata mondiale, c'era lo strumento adatto, quella rivoluzione è stata dominata, controllata, portata in fondo da Lenin e dai suoi. È l'unico caso. Se pensate a un altro personaggio che matto, simpatico, di casa mia, si chiamava Filippo Buonarroti, no? Filippo Buonarroti, toscano, ha passato tutta la vita a preparare la rivoluzione. Una rivoluzione con origini giacobine e finale anche lui di tipo comunista, no? Dal 1796, quando insieme a Babeuf credeva di poter fare una rivoluzione comunista a Parigi, fino a quando scoppia la rivoluzione in Belgio nel 30 e nel 31, lui è sempre lì a mettere insieme trame, a organizzare gruppi, a fare attività clandestina, eccetera. Non gli è riuscito mai di fare una rivoluzione. Secondo me è come posizione personale, io mi sgancerei molto dal discorso o riforme o rivoluzione. Mi sembra che sia un discorso molto ideologizzato e legato a presupposti e a complessi di idee che non hanno una effettiva realtà. Nel senso che riforme bisogna vedere quali riforme. Le rivoluzioni non si possono programmare, o è difficile programmarle, in pochi casi sono riusciti. Comunque, dico, certamente, diciamo così, quella di Sandino e dei sandinisti, per dire una cosa che è stata sulle pagine di tutti i giornali, di cui voi sapete di più di altre, è stata una rivoluzione alla fine. Ma ora poi è anche finita, c'è stata un'inversione di tendenza, le circostanze in cui le rivoluzioni avvengono è difficile prevederle e ogni volta ognuno decide. Ma tu nel 17 eri d'accordo che si dovesse fare la rivoluzione? Ma dico, se avevo 20 anni probabilmente nel 17 sarei andato anch'io a prendere il Palazzo d'Inverno, scherziamo. Bello. Poi adesso non ci andrei, ecco, non lo so. Queste sono scelte politiche, insomma, che si fanno lì sul momento. Facciamoci imbrogliare però dalle parole, questo è più importante ancora, nello scegliere che cosa vogliamo, che cosa fare oggi qui, con quale obiettivo. Ecco, qualcun altro? Qualche altra domanda? Com'è? Non ci sono più classi che non studiate più? Non avete fatto altre? Non è possibile. Eh? Qualche cosa che è venuto fuori da oggi? Allora? Se ci sono cose non chiare, io ho dovuto molto... Ecco che arriva un volontario, sai, c'è questa... un volontario... Allora, volevo sapere riguardo appunto al rapporto che c'erano tra i filosofi e i re cosiddetti illuminati, appunto i rappresentanti del dispotismo illuminato, che relazione c'era appunto, cioè se l'influenza dei filosofi era stata così forte come si può sembrare più un momento, e quanto anche i re sfruttavano questa moda, se vogliamo così dire, dell'illuminismo, per usare un termine moderno, per pubblicità, se vogliamo così dire, o per simpatie, per accattivarsi simpatie. E nello stesso modo anche quanto i filosofi verificavano se le loro idee venivano messe in pratica e quanto invece approfittavano di quello che erano i benefici che potevano ricavare da questo loro rapporto con i monarchi. Sì, vediamo un po'. Intanto mi piacciono le battute. Il filosofo è Voltaire, il monarca assoluto è Federico II, Voltaire ha provato ad andare a vivere lì alla corte di Federico II, si è stufato presto, ha bisticciato e è venuto via, però ha continuato a dire, a scrivere di lettere, che bravo Federico II, eccetera. Quindi la cosa è un po' complicata. Quando so che Voltaire ha ritrattato anche quello che diceva poi il presidente della Polonia, in seguito diciamo che aveva ridimensionato quello che aveva sentito, cioè di fronte alla politica di Federico II verso la Polonia, per la spartizione della Polonia, ha preso posizione contro Federico. Certo. Un altro caso di sovrano, Caterina II, che ci teneva ad avere alla corte dei filosofi, ci sono due personaggi famosissimi, uno è Diderot che va a vedere a Pietroburgo com'è la situazione alla corte di Caterina II e viene via disgustato, proprio non gli piace la donna Caterina, che insomma mi pareva. E l'altro è Mercier de la Rivière, invece fisiocratico, che va lì, crede di essere stato chiamato per riorganizzare tutto lo Stato russo, si accorge che Caterina ha interesse che vengano degli studiosi che dicano qualche cosina e qualche idea, però comanda lei e decide lei, allora si sente non valorizzato e viene via arrabbiato. Queste potrebbero essere già risposte a quelle domande, invece no, non sono risposte giuste. Perché? Perché al solito ci sono i filosofi, ma al solito non è che il discorso si risolve con Voltaire o con Diderot o con singole personalità. Quello che circola in Europa, come ho tentato di dire, è un insieme di discorsi molto più complessi, molto più ampi e molto più larghi. La quantità di persone, di uomini di cultura, di uomini di studio, di persone che politicamente avvertite, coinvolti nel dibattito politico, come sempre in tutte le circostanze, è molto più alto. Se poi a livello manualistico anche il manuale è uno strumento di immagine, di propaganda, cioè sintetizza alcune cose e le mette lì. Allora, dice Voltaire, Diderot, eccetera, eccetera. No, il mondo degli intellettuali, fra virgolette, e dei politici del Settecento è molto più largo e molto più complicato. E anche il mondo dei sovrani. Se Voltaire ha avuto rapporti particolari con Federico e con Caterina è perché così a un certo punto si cercava l'immagine anche da parte di questi filosofi. Si voleva dare un modello. Vedete che bravo quel sovrano che ha capito alcune cose, potrebbe farle. No, è un elemento di propaganda. Quello che conta però, dico, io faccio la storia della Francia o la storia di un paese qualunque, degli Asburgo o la Toscana. Ci sono funzionari, si possono chiamare Machaul, si può chiamare Bertin, si può chiamare Dormesson, ci sono amici che sanno queste cose, eccetera. Cioè, membri dell'amministrazione, uomini che lavorano a livello dell'amministrazione e del governo, che influiscono sul governo, che sono in contatto e in rapporto continuo con gli uomini di cultura e hanno idee illuministiche, Malesherbes, Turgot, eccetera, sono tutti personaggi pieni di cultura illuministica e lavorano con queste cose. Non è il sovrano, come vi dicevo prima, che decide, sono gli uomini che hanno in realtà la macchina della politica in mano, la macchina del potere in mano. Maria Teresa è certamente una sovrana che capisce molte cose. Governa lei, è un sovrano assoluto, è un sovrano illuminato. Ma e voi credete che Haugwitz, che Kaunitz, che i grandi personaggi dell'amministrazione centrale, che Zinzendorf, che questi non siano quelli che decidono, e loro a loro volta non decidono singolarmente, sono espressione di gruppi, di forze, di interessi, no? Allora il rapporto è fra un tipo di cultura che è portata avanti in tanti ambienti e circola per l'Europa e fra apparati di governo dove ci sono forze contrapposti, personalità, ministri, ciascuno dei quali recepisce certe idee e le porta avanti. Allora poi nella scena pubblica compaiono il grande filosofo, è il grande sovrano, ma non dobbiamo a livello manualistico fermarci lì, dobbiamo cercare di capire che dietro c'è un tessuto molto più forte. Il mio sovrano, Pietro Leopoldo, lui era bravino, ci credeva, era sincero, metteva in crisi gli ambasciatori quando c'è una lettera che ho trovato dell'ambasciatore francese che scrive spaventatissimo al suo ministro degli esteri a Milano, dice: ho incontrato il principe Leopoldo, abbiamo parlato un po', ha detto che lui è repubblicano. Per finire con un'altra battuta. Prego. Chiedere, la bibliografia di questo periodo che tratta di tali argomenti non è di parte, cioè non propone l'opinione di frazioni, di gruppi di cultura o di potere? In secondo luogo, le opinioni, la partecipazione del popolo a questi problemi, a queste tematiche, in che rapporto è rispetto ai ricchi e ai ceti più elevati? Sono due cose diverse, quindi ti devo domandare di chiarirmi meglio qualcuna di queste cose. Il primo punto, se ho capito, è, dice, la bibliografia è di parte, se vuoi, cosa vuol dire? La bibliografia ormai sui problemi del Settecento è amplissima e larghissima e c'è di tutto, anche quelli che pensano come te. Tocca a noi, leggendo la bibliografia, che è vastissima, poi farsi le proprie idee singolari. Io non credo che, ma diventa un discorso complicato, che sia possibile prendere in mano un libro che racconta avvenimenti del passato e che li racconti in maniera asettica. Ciascuno ha le sue idee. Io qui ho espresso le mie idee. Chi mi conosce forse potrebbe anche riconoscere altri elementi che ci sono dietro delle mie posizioni personali, delle mie concezioni personali. Questo non è male. È male quando una posizione di parte è l'unica ad avere diritto di cittadinanza, e cioè non esiste opinione pubblica. Se ognuno dice la sua, se le interpretazioni le più diverse circolano e possono essere messe a confronto, la circolazione e il confronto fra opinioni diverse crea perlomeno le condizioni perché ciascuno di noi poi si formi le sue opinioni personali. In questo senso però occorre un minimo di abitudine a pensare e a lavorare, e è questo il problema che rende spesso difficile alcune discussioni con gli studenti. Perché? Perché l'abitudine è una cosa che si acquisisce col tempo. C'è un elemento tempo che condiziona la cultura che ciascuno di noi può avere, che è importante e che il giovane ovviamente non ha a disposizione, ha avuto poco tempo per studiare. Allora, una visione di un periodo storico che ciascuno di noi si può fare è tanto più ampia, tanto più completa, tanto più, virgolette, obiettiva, ammesso che esista, questa la metto fra virgolette, questa parola, ma comunque spregiudicata, che tiene conto di tutti gli elementi in gioco, insomma, che cerca di essere il più possibile adeguata a quello che sappiamo. Ecco, una visione delle cose è tanto più ampia e, virgolette, spregiudicata quanto più uno studia, legge e si informa con animo disteso, cercando di liberarsi dai propri pregiudizi. Sapendo che i pregiudizi ciascuno di noi li sa, li ha, l'importante è sapere quali sono i propri pregiudizi, quindi fare anche un'operazione personale per essere diffidenti verso se stessi, nella lettura, nella consapevolezza che si prende del lavoro degli altri, no? E per fare questo, e per leggere il più possibile, informarsi il più possibile, avere delle idee le più ampie possibili, ci vuole molto tempo. Perché la bibliografia ormai è sterminata. Ecco, quindi non mi preoccupa, però, questa domanda, però non è vera nel senso che non c'è una bibliografia. La bibliografia è un elenco di pagine e pagine di libri, articoli scritti su questi argomenti, tutti di opinioni diverse fra di loro. Quindi c'è di tutto, insomma, anche i più estremisti hanno parlato e parlano su queste cose. Sì, ecco. Il problema del popolo, non ho capito in che termini del popolo, delle classi sociali, insomma, no? Se mi ripeti, cioè tu ti riferisci a quello che succedeva nel Settecento? Sì, anche perché leggendo i manuali di storia ci si rende conto che, almeno da quello che riportano i storici, la storia pare scritta solo dai più grandi, dai re, dai coloro che stanno al potere, mentre voglio chiedere appunto che rapporto ha il popolo queste nuove forme, con queste nuove dibattiti. Nel Settecento, non oggi. Allora, questa cosa che tu dici, ti tratto da studente, quindi tu non ti devi offendere, no? È sbagliata questa che tu dici, la storia è fatta dai grandi, dai potenti, dai re, eccetera, e non dal popolo. Questa cosa l'aveva detta un certo Voltaire, il tuo nemico. Voltaire aveva detto, fin qui la storia è stata storia dei re, delle battaglie, eccetera, invece bisogna scrivere una storia, e Voltaire era uno storico, scriveva storia, che sia la storia della società, dei costumi, dei bisogni, delle esigenze della gente, una storia che non sia quella dei re, delle battaglie, che non ce ne importa proprio niente. Quando tu oggi leggi i giornali, i panorami, le repubbliche, tutta la carta che circola in mano agli studenti, ai professori, eccetera, eccetera, e trovi queste frasi, basta con la storia dei re e delle battaglie, facciamo una storia sociale, questa è un'invenzione che più di 200 anni fa l'ha fatta Voltaire, e non è una novità, e da molto tempo, dai tempi di Voltaire in poi, facciamo tutti una storia che non è né dei re né delle battaglie. Prima risposta. Seconda, cioè state attenti anche alle mode delle persone intelligenti, perché anche le persone che sembrano intelligenti dicono parole e frasi e discorsi che sono cose di moda, quindi bisogna diffidare un po' di tutti. Il secondo, il popolo nel Settecento, caro mio, questo è il problema grosso, ma non mi avete chiesto questo. Ti ho fatto un caso che mi pare può essere un elemento importante di questo discorso. Secondo me, e questa è ideologicamente una cosa che nasce dalle mie idee, è faziosa quello che sto dicendo. Cioè, per chi mi conosce capisce cosa c'è dietro alla mia impostazione. Quello che io vi ho detto prima del passaggio da una società in cui la vita economica deve essere regolata anche tenendo conto di bisogni e di esigenze comuni e collettive, a una società in cui prevale l'interesse privato, la proprietà privata, l'interesse economico del singolo, il mercato come regolatore dei contrasti fra privati, questo passaggio fra 7 e 800, fra un'economia morale, come dicevano nel 700, e l'economia del liberismo economico, del libero scambio, del mercato e così via, questo passaggio è uno passaggio fondamentale, dietro al quale si muovono tutte le altre cose, secondo me, e questo è il mio pregiudizio personale, condiziona le riforme, la rivoluzione e così via. Questo passaggio è un passaggio che passa sulla testa del cosiddetto popolo, ammesso che esiste il popolo, è un'altra di quelle parole, borghesia, proletariato, popolo, sono tutte parole un po' vecchie, no? C'è bisogno di stare un po' attenti a come si usa. Passa sulla testa del popolo. Allora, nei villaggi, nei centri di campagna, nelle città, la gente viveva male, viveva al limite della sussistenza, era abituata a sapere che i regolamenti esistenti tenevano conto dei suoi bisogni e delle sue esigenze. Non era vero. I grandi speculatori c'erano, i grandi mercanti c'erano, però nella coscienza collettiva della gente, a livello soprattutto di villaggio, di quartieri popolari, eccetera, c'era l'idea che ci fosse nella società nell'autorità pubblica, nel sovrano, negli organi comunitativi, regole e forme di regolamento sulle vicende dell'economia che tenessero conto dei bisogni, delle esigenze della gente povera, cioè che ci fosse chi stava attento che i prezzi dei grani non fossero troppo alti, che il grano affluisse regolarmente sui mercati, in modo che chi aveva bisogno potesse andarlo a comprare a un prezzo non troppo alto e così via. Ecco, c'era tutta questa mentalità, era un elemento in parte reale, in parte d'immagine, era una cosa attraverso il quale il potere esistente, i sovrani e le strutture politiche esistenti tenevano tranquilla la gente e qualcosa facevano, perché comunque il grano sui mercati si faceva arrivare, si cercava, salvo poi quando scoppiavano le carestie tutto questo non serviva, quindi quando ce n'era più bisogno la gente moriva di fame lo stesso, non era questa la soluzione dei problemi. Ecco, allora, se io parlo del grande movimento settecentesco, di dibattiti sull'economia, attraverso i quali emerge il bisogno di riforme per far saltare questi sistemi, questi regolamenti, il sistema annonario, per fare saltare tutti gli elementi dell'economia morale, far prevalere l'individualismo economico in tutti i settori, anche nell'agricoltura, se vi dico questo, dico una cosa che riguarda uno strato alto della società, non il popolo. Lo strato alto della società che è quello che decide, però. E quello che è avvenuto, se io voglio capire come è avvenuto e perché, l'hanno deciso questi che discutevano in questi termini. È più importante, purtroppo, Adam Smith, che scriveva su queste cose, che non quei contadini o quegli abitanti del Faubourg Saint-Antoine che avevano bisogno del grano a buon prezzo sui mercati. Questo è il primo punto. Io quando faccio lo storico mi fermo qui, non dico viva il popolo, abbasso i sovrani, abbasso gli speculatori, abbasso gli intellettuali, eccetera. Io guardo come sono andate le cose, voglio capire e poi deciderò qui cosa faccio oggi, ma il dare dei giudizi di valori riguarda me oggi qui, non riguarda il passato è in quei termini. Nel guardare il passato però devo tener conto che la società era complessa e c'erano anche questi contadini, questi abitanti dei villaggi, i popolani dei sobborghi parigini che potevano rischiare la fame e così via. Se non tengo conto che esistevano anche questi e di come reagivano a quello che succedeva, allora non capisco bene il contesto. Proprio su questa cosa non viene fuori, pensa un po' a questo fatto. Il problema della cosiddetta libertà del commercio dei grani che si discute in tutta Europa, in Francia si tenta due volte di affrontarlo. Nel 1763-64 si fa una riforma in questo senso, dura fino al 70, progressivamente i prezzi continuano ad aumentare, la gente protesta, ne approfittano i parlamenti e gli avversari della riforma, perché oltre al popolo ci sono anche le forze ostili, reazionarie, diciamo così, che utilizzano le reazioni del cosiddetto popolo per fare a loro volta i loro giochi, no? Insomma, fallisce questa riforma. Turgot tenta di nuovo di fare questo. Cosa succedono? Rivolte popolari, assalti ai carichi di grano, il popolo, come tu lo chiami, cioè gruppi popolari, abitanti dei villaggi e così via, reagisce a questa riforma, pensa che sia una causa di rincaro del prezzo dei grani. Allora tu per capire quello che succede nel Settecento dici, si muove così Turgot, ma nel paese complessivamente ci sono queste reazioni. I parlamenti, che sono lo strumento, tra virgolette, della reazione in questo momento, hanno possibilità di farsi forza di queste reazioni popolari, bloccare Turgot, e Turgot viene mandato via dagli amici di Maria Antonietta, come vi dicevo prima, eccetera. Allora, un conto è dire il complesso della società si muove così, un conto è dire che cosa è successo nel lungo periodo. Nel lungo periodo queste cose sono passate nonostante che al popolo non piacessero. C'è una cosa indicativa ancora. Appena si forma, quando inizia la rivoluzione, si forma l'assemblea costituente a Parigi, la prima cosa che i rivoluzionari, virgolette borghesi, come li chiamate voi, fanno, è quella di proclamare di nuovo la libertà del commercio dei grani. E di nuovo si apre nel corso della rivoluzione il discorso su questa stessa cosa, sulle quali le riforme non erano passate due volte. E sono i rivoluzionari questa volta che vogliono la libertà del commercio dei grani, la fine del sistema annonario. E che cos'è il giacobinismo nel periodo forte, nel periodo del terrore? Qual è una delle componenti essenziali del terrore, diciamo così? È il maximum, è il calmiere dei prezzi e dei salari, è l'economia regolata, l'introduzione di forme, di regolamenti economici che salvino il popolo dalla speculazione dei privati, dei possessori e mercanti di grano e così via, contro la libertà del commercio dei grani. Cioè il dibattito di nuovo investe anche la rivoluzione nel periodo della rivoluzione. Nel corso della rivoluzione, alla fine, chi ha vinto? Quelli che stavano dalla parte della libertà del commercio dei grani, quelli che voi chiamate la borghesia. I sanculotti parigini hanno fatto il periodo più violento e drammatico della rivoluzione, dal 93-94 finché anche Robespierre ha pagato con la ghigliottina, hanno imposto la fine della libertà economica nel senso nuovo che stava emergendo e hanno perso. Ci sono altre domande? Ecco, allora io direi che se non ci sono altre domande, no, possiamo chiudere qui esausti, perché tu sarai stanco. Ringraziamo tutti, ci vediamo. Buone vacanze. Buone vacanze.